gioir i sensi e l'alma. Senza il foglio del saggio in mano al sonno resister tenterei. Ecco le suore, dopra il desiderio conforme, e sopito nel sonno, egli che torne. Colo si annudi, i sospiri vittima al mio furore. E lui s'avanza, o giuri contro Rinaldo, per me prender quello. E pronto che neghittoso il sole, colo si ingioce, udi il suo amore che o che mi distrusse io. Me catene, ritorta questa malaccia al mio piede. Amico! E tu lo soffri, e tu il mio sdegno, contro si grave insulto, armi a battaglia. Con freno l'ira, a tua ragion ti vaglia. Che freno, che ragion, ma tu maneggi infine, nell'uomo amor c'hai per costei. Prendi, Ruzio, questo amore che te fa scudo, farei il degno. Di stringerlo a servirti, e tu vedrai l'invincibile suo brando contro il tanto da te aborrito Orlando, trionfar glorioso in campo armato. E intender dovria che possente oratore e un labbro amato. Sciolteri seguirì, ma per tuo duolo. Basta chi ben intende un cenno solo. Auto mio cuor. L'oltraggio, alta regina, di magnanimo cuor passi tiranno, ma sottenta l'oltraggio grazia e favor. Illustre cuore allora di cortesia, restar vinto non degna. Lo sdegno mio col tuo favor tu vinci, ma non vinci il mio cuor. Io tuo campione sarò quanto concede all'alma generosa onore e fede. L'udesti? Andia! Dove vai io? Mi lascio in libertà di favellarmi. Oddio, sovvengati che in te sono felice. Vieni gli occhi e cuore in te quest'alma. Talò anche la frode a vincer dice.